canta. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Allora, buonasera, buonasera a tutte e ben sintonizzate sugli 87,9 di Radio Onda Rossa. Quella che state ascoltando è la nostra 213esima trasmissione ed è anche quella che segna la nostra ripresa di comunicazione politica attraverso l'etere di questo nuovo anno 2008. Il CLR ha fatto una breve pausa durante le feste e diciamo che oggi finalmente possiamo cominciare insieme un nuovo anno di scambi, di informazioni, di considerazioni e di riflessioni. Da parte nostra continuiamo ad avere lo stesso piacere della condivisione che abbiamo provato e che continuiamo a sentire presente da ben 10 anni. La nostra prima trasmissione dietro questi liberi microfoni risale infatti al dicembre 1997. Ma torniamo alla trasmissione di oggi e al suo palinsesto. Stasera faremo un brevissimo discorso legato alla spinta politica che ci porta ad organizzare delle iniziative come gruppo al Centro Femminista Separatista all'interno della Casa Internazionale delle Donne e prenderemo spunto da quella effettuata lo scorso 15 dicembre. Sto parlando chiaramente della quinta edizione della Lesbotombola. Cercheremo di rimarcare e sottolineare ancora una volta le motivazioni che ci spingono come gruppo lesbico separatista ad organizzare eventi come quelli. Faremo poi, come di consueto, alcune riflessioni da donne lesbiche e femministe quali siamo, perché non possiamo proprio farne a meno. Diciamo che ci vengono spontanee, quasi come la rabbia che ne consegue, che sono queste considerazioni legate a doppio filo a tutto quello che circonda, che ci circonda, e in questo frangente anche al delirio festaiolo che in occasione delle appena passate feste natalizie ha messo in atto tutte le procedure che il consumismo, che io definirei patriarcale eterosessuale, ha potuto mettere in gioco in barba alla correttezza, al rispetto delle diversità e anche in assoluta e completa inosservanza della realtà che oggi è pienamente vissuta e direi anche rappresentata da realtà quali le nostre. Scusate, mi sto rendendo conto che forse l'entusiasmo di ricominciare un nuovo ciclo di trasmissioni con voi mi ha fatto dimenticare di dire che io sono Caterina e con me qui in studio ci sarà Pina appena trova parcheggio, che poverina sta girando per tutto San Lorenzo sperando di trovarne uno. Allora, a questo punto penso che sia il caso di mandare un piccolo stacco musicale e poi inizieremo andando nel vivo degli argomenti che abbiamo scelto per oggi, ricordandovi che avete la possibilità di comunicare con noi attraverso l'invio di SMS al numero 338-4146-682, che rimarrà attivo, ricordiamo, soltanto per tutto il tempo della trasmissione, quindi fino alle ore 22 o qualche minuto in più. Oppure potete chiamarci qui in radio allo 06 49 17 50. Allora, il brano che abbiamo scelto per stasera è di Alain Morissette e si intitola Things. Even though that it alone does not equate mentre nell'attesa che arrivi finalmente Pina vittoriosa per aver trovato un parcheggio, io intanto comincio a leggere quello che lei aveva preparato, che era il resoconto della lesbotombola, sperando di non fare troppe papere, visto che l'intervento non era il mio. Allora, a me quindi il compito di parlarvi dell'ultima iniziativa, la lesbotombola, arrivata alla sua quinta edizione, e di ciò che per noi ha significato. Prima di tutto diciamo che con questa iniziativa il CLR e tutto il Centro Femminista Separatista ha potuto salutare le molte donne intervenute e augurar loro di passare delle buone feste. Infatti la lesbotombola è stato l'ultimo appuntamento programmato per il 2007. Tutte le partecipanti che, come ormai di consueto, sono giunte copiose, infatti erano più di 100, hanno potuto gustare i meravigliosi manicaretti che Giovanna, la mitica Giovanna, ha preparato appositamente per l'occasione, e dopo cena si è potuto giocare divertendosi insieme ad ogni numero di tombola estratto. Per finire si è ballato fino allo stremo delle forze, soprattutto le nostre, che abbiamo allestito tutti gli ambienti e che, una volta andate via le donne, abbiamo dovuto risistemare ogni cosa. Allora, questi aspetti appena descritti sono sicuramente importanti perché hanno permesso a queste 100 donne di socializzare, di conoscersi, di divertirsi e di godere della reciproca compagnia. Ma c'è un'altra ragione che rende questa, così come tutte le altre iniziative simili che il CLR porta avanti, a far sì che risultino tutte ancora più importanti del beneficio immediato che se ne ricava partecipando. Non saremo certo noi a ricordare che già da diversi anni gli spazi per le donne si stanno assottigliando e sono costantemente continuo oggetto di prevaricazione e violenza. Ricordiamo infatti cosa è accaduto proprio recentemente al 22, tanto per dirne una. Il disconoscimento del valore che hanno, oltre a subire una sorta di linciaggio politico che vorrebbe classificarli come obsoleti. Ricordate le battute che ci hanno appiccicato durante l'unica manifestazione contro la violenza degli uomini sulle donne? Ci hanno definite veterofemministe, dove vetero deriva da veterane, e veterane significa sostanzialmente vecchie nella sua accezione più denigratoria. Ma si sa da sempre, quando le donne dimostrano la loro forza, fanno paura, e quindi è normale cercare di affossarle per far rimanere sostanzialmente tutto come sempre. Ecco, noi del CLR, oltre a questi aspetti che riconosciamo a noi contrari in quanto donne femministe, subiamo anche il tentativo di cancellazione in quanto donne lesbiche. Meno visibilità abbiamo e meno esistiamo. Da sempre il silenzio su di noi ha garantito l'eteropatriarcato il nostro occultamento. È chiaro che la lotta che portiamo avanti è per noi vitale, anche perché continuiamo a non accontentarci della visibilità che si vorrebbe noi avessimo, quella consentita e concessa. No, noi vogliamo la nostra e solo la nostra. Ci premeva in questo contesto ribadire il perché ogni tanto noi facciamo iniziative del genere. Ci piace ricordare che il nostro gruppo si autofinanzia e che, per poter continuare ad essere indipendenti e libere di portare avanti una politica lesbica, abbiamo bisogno di reperire fondi. Infatti, tutto l'incasso della serata della lesbotombola sarà la linfa che vedrà un reinvestimento in altre iniziative culturali, politiche ed aggregative che, come gruppo lesbico separatista, indiremo, come ci piace definire le nostre idee e i nostri progetti, da e per donne. Ed è proprio per questo da e per donne che siamo in ogni caso anche presenti in altre forme di lotta, quelle che le compagne in onda prima di noi hanno ben delineato, no? Il movimento che è nato con la preparazione e la realizzazione del suo proseguo in forma assembleare dopo la manifestazione del 24 novembre. O quella che ci spinge a gioire insieme a voi per l'annullamento della visita del Papa alla Sapienza il prossimo giovedì 17 gennaio. Questa visita era stata programmata per l'inaugurazione dell'anno accademico e ci piace pensare che sia stata la presenza di tanta determinazione contro tale iniziativa che ha fatto sì che la Santa Sede reputasse meglio soprassedere. Ma anche ci vedono vicine quelle forme di lotta che portano alla partecipazione della manifestazione nazionale di Novat del prossimo 9 febbraio. Questo perché noi non siamo monadi che vivono solitarie chissà dove. Facciamo parte di un contesto con il quale ci piace interagire. E inoltre, per tornare al discorso delle nostre iniziative al Centro Femminista Separatista della Casa Internazionale delle Donne, il continuo relazionarsi alle altre lesbiche ci permette di non cadere in quella autoreferenzialità che spesso rende distanti anche le migliori idee. Per tutti questi motivi continueremo ad organizzare eventi e a ringraziarci reciprocamente per la caparbietà di voler continuare ad esistere e resistere per ciò che siamo, per rivendicare il diritto all'esistenza, che ne dica il caro Joseph. Di nuovo quindi un graditissimo grazie a tutte le donne che ci hanno sostenuto fin qui e continueranno a sostenerci partecipando con noi a tutte le iniziative, ma il nostro augurio va anche, il nostro saluto e il nostro ringraziamento va anche a tutte quelle che interverranno in futuro. Ora ascoltiamo un altro brano musicale. Ascoltiamolo, sto scegliendo adesso mentre parlo, vediamo Out of Reach di Gabrielle. Spero che parta. È partito. The signs wasn't right. I was stupid for a while. Swept away by you. And now I feel like the fool. So confused, my heart's bruised. Was I ever loved by you? Out of reach, so far. I never had your heart. Mi sto abituando all'idea che questa trasmissione probabilmente la farò da sola. Pina sta diventando un miraggio sempre più lontano. E quindi niente, io proseguo imperterrita con la mia trasmissione dicendo che il nostro rientro dietro questi liberi microfoni non poteva cominciare normalmente, mi sembra giusto per non smentirci mai. Allora, io ho preparato anche un intervento che era sempre legato a, come dicevamo all'inizio, al consumismo, eterocosumismo che dilaga sempre, costantemente e normalmente. Il problema è che durante le festività, soprattutto quelle natalizie, dove è previsto l'arrivo di regali, insomma, queste cose diventano ancora più lampanti. E io ho preparato questo intervento che così ora andrò a leggervi. Dunque, dovete sapere che noi zie lesbiche siamo costrette a fare, chiaramente si fa per dire costrette, a fare le zie lesbiche oppure le zie classiche, almeno sotto le feste di Natale. Già, perché se durante tutto l'anno i nostri rapporti con i figli o le figlie dei nostri fratelli e sorelle sono veicolati da tipologie relazionali non proprio classiche, basta pensare a come ci presentiamo noi all'interno delle loro classiche famiglie, in occasione delle feste si scatena il delirio consumistico per antonomasia, nel quale, loro malgrado, i bambini e le bambine sono risucchiati. Ora, per la regola in base alla quale è giusto dare un colpo al cerchio e uno alla botte, se per tutto l'anno ci siamo messe in gioco per far scoprire in modo altro di stare al mondo, a volte anche con grandi risultati di consapevolezza infantile addirittura insperata, sotto Natale ci piace assecondare qualche desiderio in più, visto che il piacere di stare insieme ci porta pure a voler condividere con loro anche vari altri aspetti della loro vita, che da noi sono praticamente distante anni luce. Tipo andare insieme al cinema e vedere un cartone animato, o cercare tra gli scaffali dei negozi di giocattoli uno dei doni che vorrebbero ricevere da Babbo Natale, anche se noi preferiamo solitamente farli portare dalla Befana, ma fa lo stesso. Ed è questo il contesto che il mese scorso io e Pina praticamente siamo andate al cinema a vedere l'ultimo film di Walt Disney, Come d'incanto. Obiettivamente è un film fatto molto bene, con risoluzioni tecniche decisamente innovative che avrebbero potuto far cadere l'ago della bilancia su un giudizio tendente al positivo, se solo non ci fosse stata la solita zuppa raccontata sempre allo stesso modo. In sostanza è la classica storia tipo Cenerentola, dove una povera e graziosa fanciulla aspetta che un ricchissimo principe la sposi. Chiaramente il tutto impastato da gag simpatiche, divertenti animaletti che accompagnano i personaggi, e come di consueto non manca la strega cattiva ed il colpo di scena. La cosa che però non ci è andata proprio giù è stata che purtroppo si è dato come messaggio unico che tutte le donne aspettavano quello che la protagonista stava sognando, e che in quanto femmine era scontato che il ruolo a lei predestinato fosse quello dell'angelo del focolare. Poi, come se non bastasse, la futura reginetta della casa entra in competizione con l'altra e cerca di accaparrarsi le simpatie del moderno principe azzurro, arrivando ad essere per lui assolutamente insostituibile. E volete sapere quali strategie segrete adotta per realizzare tutto ciò? Riordina, rassetta e lucida tutto l'appartamento di lui, che, in quanto uomo, risulta essere chiaramente sempre in disordine. No, dico, capito il messaggio? caro Walter, no Veltroni chiaramente, ma Disney, vuoi forse andare a delineare il ruolo della donna in tutte le giovani menti delle spettatrici che hanno riempito le sale, in modo che si abituino fin dalla più tenera età a non aspettarsi di più? Ma dove vivi? Noi lesbiche, che riteniamo fondamentale il desiderio, non è che ci stupiamo quando alcune donne pensano che il loro maggior desiderio sia quello rappresentato in questo film. Rimaniamo solo un po' sorprese che tante altre, mamme, zie e nonne, non si arrabbino come ci siamo arrabbiate noi, o che si cerchi di spacciare tutto questo come il desiderio di tutte, nel silenzio più totale. E allora noi, così per ripicca, per iniziare al meglio questo nuovo anno insieme, vi proponiamo di ascoltare quello che per noi è una sorta di piccolo riscatto. Infatti leggeremo una favola lesbica. Dopo il grande successo, perché questa favola è già stata letta praticamente da Francesca qualche mese fa, abbiamo ricevuto qualche messaggino che ce l'ha richiesta, e quindi praticamente adesso manderemo uno stacchetto musicale e poi Pina leggerà una favoletta assolutamente lesbica, così a Roma si dice pertigna. Quella che andiamo ad ascoltare adesso la canzone si intitola Androgyn, che è di Garbage. When everything is going wrong and you can't see the point of going on, nothing in life is set in stone, there's nothing that can be turned around. Nobody wants to feel alone, everybody wants to love someone. Out of the tree go pick a plum, why can't we all just get along? I'll free your mind. Allora, una notizia importantissima, è arrivata finalmente Pina. Adesso, per vendicarmi del suo ricordo, le farò leggere tutta la favola da sola, così, ecco. Allora, intanto io vi ricordo che siete all'ascolto di È una calamità, di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento Lesbiche Romane all'interno dello spazio autogestito femminista e lesbico di Radio Onda Rossa sugli 87-900 MHz. Rammentiamo che c'è la possibilità di ascoltarci in diretta attraverso il sito della radio, che è www.ondarossa.info, oppure tramite il sito ufficiale del CLR, che è www.clrbp.it. In entrambi i casi basta cliccare sull'icona in diretta per iniziare ad ascoltarci. Salutiamo tutte le donne che ci accompagnano ascoltando Radio Onda Rossa e la nostra trasmissione, rendendo possibile così la prosecuzione della nostra avventura dietro questi liberi microfoni. Se ci state ascoltando via internet, ci farebbe piacere sapere da dove. Inoltre potete fare il graditissimo trillino, quindi basta far squillare il telefono di Radio Onda Rossa componendo lo 06 49 17 50, lasciar squillare una sola volta e poi riagganciare, così noi capiremo che ci siete e che ci state ascoltando. L'altro mezzo che avete è quello degli SMS, per cui ripetiamo il cellulare 338 4146 682 e ancora potete inviarci una email al nostro indirizzo di posta elettronica, che è contatti@clrbp.it. Potete anche telefonarci in sede allo 06 68 64201 e lasciare un messaggio nella segreteria telefonica, o se preferite potete chiamare il giovedì sera e quindi parlare direttamente con una di noi. Ma non finisce qui, le nostre doti sono illimitate. Per gli amanti della carta potete scriverci una lettera indirizzandola a CLR presso Casa Internazionale delle Donne, via San Francesco di Sales 1B00165 Roma. Ripetiamo ancora il telefono della radio, che è 06 49 17 50, ed il nostro telefono cellulare, che oggi langue, non ha ricevuto neanche un SMS, per cui ripeto il numero 338 4146 682. Allora, in attesa che Pina si prepari per la lettura della favoletta, mandiamo un altro brano musicale, e io volevo semplicemente dirvi che manderò questa canzone, visto che andiamo a leggere una favoletta lesbica, che dal titolo veramente significativo, o Happy Gay delle Spaventapassere. Un attimo di pazienza per i tempi tecnici per prepararmi il CD e lo mando. Happy gay, happy gay, oh, Pina, sei pronta? Possiamo cominciare? Parla nel microfono, ricordati, so che è stato stressante trovare parcheggio. Ok, Pina. Buonasera a tutte, ecco, buonasera a tutte, scusate per il ritardo, ma purtroppo questa zona è impraticabile da un punto di vista logistico per le macchine. E quindi a grande richiesta io vi leggerò il racconto della scarpa. Fino a che lei non arrivò, regnò il gelo. Da quando mia madre era morta, il letto di piume mi era sembrato duro come un pavimento di pietra. Ogni parola che usciva dalla mia bocca zoppicava via incerta come un uccellino caduto dal nido incapace di volare. Qualsiasi cosa indossassi sembrava una tela di sacco e mi irritava la pelle. Sentivo bussare nella mia testa e correvo alla porta, ma non c'era mai nessuno. I giorni scorrevano come polvere spazzata dalle mie dita. Io strofinavo e passavo la scopa, perché non c'era altro da fare. Grattavo la fuliggine dal focolare con le unghie e lavavo il pavimento fino a che le ginocchia mi sanguinavano. Contavo i chicchi di riso e dividevo i fagioli marroni da quelli neri. Nessuno mi obbligava a fare quello che facevo. Nessuno mi rimproverava. Nessuno mi puniva, tranne me. Le grida erano tutte dentro di me. «Fai questo, fai quello, pigro ammasso di sudiciume». Conoscevano domande e risposte le voci nella mia testa. Alcuni giorni mi chiedevano perché ero ancora viva. Cercavo la voce di mia madre, ma non riuscivo a sentirla in mezzo a quel clamore. Quando tutto ciò che andava fatto durante il giorno era fatto, le voci scemavano. Mi accovacciavo accanto al focolare a fissare le braccia ardenti, fino a che gli occhi mi lacrimavano. Cercavo di immaginare un futuro, presumo. Alcune notti mi raccontavo storie che mi facessero piangere. Poi mi lisciavo i capelli fino ad addormentarmi. Una volta, una delle tante in cui correvo alla porta e non c'era nessuno, di nuovo, come sempre, non c'era nessuno. Ma la sconosciuta era dietro di me. Per un attimo pensai che fosse emersa dal fuoco. I suoi occhi fiammeggiavano e le ciglia erano argente di cenere. La sconosciuta disse che la mia schiena doveva essere stanca e che le pulizie potevano aspettare. Mi portò in giardino e mi mostrò un albero di nocciole che non avevo mai visto prima. Iniziai a farle delle domande, ma lei appoggiò il suo dito sottile sulla mia bocca. Così potemmo udire il mormorio di una colomba sul ramo più alto. Seppi che aveva conosciuto mia madre quando era ancora viva. Disse che quello era l'albero di mia madre. Come posso descrivere la trasformazione? Il mio vecchio io, polveroso, fu filato a nuovo. La donna mi rivestì di velluto blu. Danzavo su punte di limpido cristallo. E poi, siccome lo avevo chiesto, mi portò al ballo. Non è ciò che ci si aspetta che chiedano le ragazze? La sua carrozza mi condusse fino allo scalone del palazzo. Sapevo esattamente come avrei dovuto comportarmi. Sorrisi con grazia infinita quando le grandi porte si spalancarono nell'annunciarmi. Rifiutai una tartina e tirai all'indentro la pancia. Sotto migliaia di candelabri di cristallo, danzai con 10 gentiluomini attempati che non avevano nulla da dire, ma non per questo tacevano. Io rispondevo solamente con dei «davvero?» oh, sì, e credete sul serio?» A mezzanotte meno 10 discesi la scalinata e lei mi portò via. «Ne hai avuto abbastanza?» chiese, togliendo un capello dal mio lungo guanto. Era sufficientemente anziana da essere mia madre e io ero una ragazza che doveva costruirsi un futuro. Le voci iniziavano a farsi sentire. Ognuna mi diceva di fare qualcosa di diverso. Riportami domani sera, risposi. Così ella riapparve. Mentre la minestra stava bollendo, e prese un cucchiaio d'argento dalla tasca per imboccarmi. Le nostre dita disegnavano nelle ceneri del focolare vaghe forme di isole e uccelli. Mi mostrò la scintilla nei miei occhi. Quanto ampia poteva volteggiare il mio abito, come ballare un valzer senza avere il capogiro. Questa volta era flessuoso raso verde. Mia madre stessa non mi avrebbe riconosciuta. Quella sera al ballo mi immersi nel corso degli eventi, cinguettai agli scherzi del vecchio re, accettai un'ala di pollo e la mordicchiai delicatamente. Danzai tre volte con il principe, la cui mano esitava sulla mia schiena minuta. Mi chiese quale fosse il mio colore preferito, ma non me ne sovvenne nessuno. Mi chiese il mio nome e per un attimo non potei ricordarlo. A mezzanotte meno cinque, quando i piedi cominciavano a dolermi, aspettavo in fondo alla scalinata e lei venne a prendermi. Andando a casa, chinai la testa sulla sua stretta spalla e lei mi poggiò una mano sull'orecchio. «Ne hai avuto abbastanza?» chiese. Ma io non avevo bisogno di ascoltare le voci in sottofondo per sapere come proseguiva la storia. Il mio futuro stava per realizzarsi. «Riportami domani sera», dissi. Così ella venne un'altra volta, proprio mentre il rumore dei topi iniziava a innervosirmi, e disse che erano dei cocchieri, pronti a condurci in pompa magna. Affermò che il suo dito era una bacchetta magica che poteva fare cose spettacolari. Sapeva sempre come farmi ridere. Quella sera la mia nuova pelle fu seta rossa, fremente nella brezza. Il principe indugiò al mio braccio come una foglia d'autunno pronta a cadere. I musicisti suonavano e risuonavano la stessa melodia. Danzai come una ballerina meccanica e sorrisi finché il volto mi si contrasse. Ingurgitai un po' di tutto quanto mi veniva offerto. Poi mi affacciai al balcone e lo vomitai. Ebbi appena il tempo di pulirmi la bocca che il principe venne a proporsi. Mi portò sullo scalone, alla luce della mezzaluna, un'atmosfera da fiaba. I suoi lunghi baffi iniziavano a tremare. Sembrava un attore su un palcoscenico cigolante. Non appena le parole cominciarono a fuoriuscire dalla sua bocca, formarono una nuvola in cui potevo vedere il futuro. Lo ascoltavo a malapena. Le voci strillavano «Sì, sì, sì!» «Di sì prima di perdere la tua occasione, nullità che non sei altro!» Aprì le labbra, ma non ne uscì suono. Non era un uomo minaccioso. Ciò che mi offriva era bianco e soffice, confortevole come la nebbia. Non c'era nulla di cui spaventarsi. Ma proprio allora la campana di mezzanotte cominciò a rintoccare la lunga processione degli anni, giorni a palazzo e notti senza luna. E io mi lanciai lungo le scale, lasciando una scarpa dietro di me. I cespugli strapparono il mio vestito e lo trasformarono in un vecchio straccio. Il silenzio sul prato era perfetto. Lei mi aspettava nell'ombra. Non chiese se ne avevo avuto abbastanza. Avevo del tutto frainteso la storia. Come avevano potuto non notare la sua bellezza? Le mie parole devono essersi perse tra quei cespugli. La abbracciai. Potevo sentire la sorpresa nel suo respiro. «Dov'è la scarpa?» chiese. «Mi stava incidendo il tallone», le dissi. «Che ne sarà del principe?» chiese. «Ne troverà una adatta se cerca sufficienza». «Che ne sarà di me?» chiese sommessamente. Sono vecchia abbastanza per essere tua madre. Il suo dito vagava dietro il mio collo. Non sei mia madre, dissi. Sono grande abbastanza per saperlo. Lanciai l'altra scarpa nei rovi, dove rimase appesa, oscillando. Così ella mi riportò a casa. O io la riportai a casa. Oppure fummo entrambe portate in qualche modo da qualche parte. Beh, era o non era carina questa favola? Allora, se magari vogliamo ricordare dove l'abbiamo presa, questa... Praticamente è un libro scritto da Emma Donog e si chiama Il bacio della donna strega. Esatto. Scusate, Il bacio della strega. Certo. No, io volevo dire una cosa, che visto che le favolette, anche in base a quello che noi abbiamo visto durante le vacanze con i nostri nipoti, insomma, è deprimente. Se qualcuna di voi ascoltatrici ha scritto delle favole altre, e se ha voglia di inviarcele, a noi farebbe piacere comunque leggerle qui alla radio, o anche farvele leggere direttamente, magari se ci contattate. Io vi ricordo con l'occasione il nostro indirizzo di posta elettronica, che è contatti@clrbp, o il telefono della nostra sede, che è 06 68 64 201, dove ci potete contattare, o il nostro indirizzo, che è via San Francesco di Sales 1B00165, e noi siamo le donne del CLR presso la Casa Internazionale delle Donne di Roma. E quindi, che dire, se avete favole nel cassetto potete inviarcele, noi le leggeremo con molto piacere, oppure ci potremmo incontrare qui alla radio e potreste leggerle voi. Quindi, bando alla timidezza, aspettiamo le vostre favole. Io colgo l'occasione per ringraziare l'unica che ci ha mandato un messaggio, che io qui adesso vado a leggere un attimino. Ricevuti, eccola qui, e dice una cosa sacrosanta: se l'aborto ci fosse stato, Giuliano Ferrara non sarebbe mai nato. Ciao belle, grazie per il belle, meno male che è una radio per cui nessuno potrà obiettare ciò. Non si è firmata, quindi noi contraccambiamo dicendole grazie bella. Allora, dopo una favoletta lesbica, io pensavo di mandare un'altra canzone lesbica, che è stata cantata dal Year Girlfriend, che è un gruppo americano, e si intitola Lesbi Bop. Baby, gonna do Allora, il tempo a nostra disposizione è praticamente finito, visto che questa nostra prima trasmissione che ha segnato il rientro è stata caratterizzata da una pericolosa assenza di Pina che temevo non arrivasse più. Va bene, per fortuna noi siamo resistenti, abbiamo le spalle larghe. Allora, il CLR vi dà appuntamento alla settimana prossima, che è il 22 gennaio, con la replica di questa trasmissione. E vi salutiamo con un'altra canzone lesbica di un altro gruppo americano, che è Le Gaie Adegbalola. Si chiama Big Ovaries. Penso che sia significativo il titolo anche rispetto a tutto quello che abbiamo detto questa sera. E quindi, allora, appuntamento alla settimana prossima e aspettiamo le vostre favole, i vostri messaggi. Ringraziamo ancora la Bella che ci ha scritto e alla settimana prossima. Ciao e grazie. Arrivederci a tutte, un saluto anche da Pina. Lesbiche romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that something's got a hold.